Siamo partiti! Oddio! Senza sigla! Senza sigla, senza stappo di bottiglie! Siamo qui questa sera dal Next Emerson. Serata di concertoni. Tanta roba, così, no? Così all'intrasatta durante la diretta. Distorsioni! Siamo qui fra l'entrata e il bagno con il nostro tavolino. Sì, veniteci a trovare, per favore. Tante interviste stasera. Qual è il tema della serata? Allora, sì, iniziamo subito questa, per chi non lo sapesse, per chi non ci conoscesse ancora, questa è l'arte del vizio, dello stravizio, e come ogni domenica su Radio Wombat dalle 19 alle 21. Oggi siamo un po' in anticipo. Abbastanza. Dalle 19 alle 21, salvo quando si anticipa o si fa eccessivo ritardo. Quindi è un più o meno 19:21. Vabbè, oggi ci stiamo deliziando con questo mixer con gli effettini, per cui scusateci amici ascoltatori e ascoltatrici. Questa è sempre Radio Wombat. Che dire, ascoltateci su radiowombat.net sulle 1359 kHz. Ma appena abbiamo finito queste, insomma, le pulizie di casa, diciamo subito di cosa si parla stasera. Stasera l'arte del vizio, speciale arte del supplizio. Esatto, quindi se stasera per voi sentire questa trasmissione così caotica, così distorta e accompagnata musicalmente in modo particolare, come vedrete, sarà un supplizio, sappiate che è esattamente quello il motivo, perché siamo all'arte del supplizio. Assolutamente. Allora iniziamo subito con una bella definizione di supplizio, perché ci teniamo a essere scientifici, scientifiche e accurati. Sì. Allora, per la Treccani ci sono varie eccezioni di supplizio. In primo luogo è una pena corporale che comporta gravi sofferenze e lesioni, tipo flagellazione, taglio delle mani. Come punizione, soprattutto nel passato, colpevoli di furto venivano mozzate le mani. Ah, roba tranquilla. Sì. Poi, successivamente, si può dire che un significato alternativo più generico è un supplizio, una supplizio figurata. Un supplì. Sì, è un supplizio, un grave tormento o patimento materiale o morale. Insomma, dalla tortura si va ai supplizi quotidiani. Posso dire di stare esperendo questa dimensione questo momento. Allora sì, siamo qui con la cara Genge, che da qualche puntata ci accompagna la domenica, e oggi ha detto, cioè ci sta degnando della sua presenza, giustamente anche direi, grazie davvero, però... Grazie a voi di ospitare il mio disagio stasera. Esatto, stasera tu espleterai, insomma, come dire, un ruolo io particolare. Sono... Je suis supplizio. Mamma mia, non si capisce veramente un cazzo. Io mi sento in una dimensione supplizievole. Vabbè, comunque grazie Genge che stasera ci porti il dolore. Grazie reverendo, di accoglierlo. Andiamo a slimmare il microfono. Buonasera Slim. Buonasera. Ciao Slim, salutiamo anche Palmiro che sicuramente sarà all'ascolto. Palmino telefona. Mi raccomando. Sì, a proposito, vogliamo ricordare a chi ascolta che può interagire con il nostro supplizio condividendo il proprio nell'ascoltare tutto questo. Assolutamente, sarebbe bello. Fatelo andando su direttawombat.vado.li. Lo ripeto, direttawombat.vado.li. È il fantastico pad con cui interagire con noi, oppure potete farlo scrivendo una profumatissima mail a gattini. No, sto scherzando. frittole@gattini.ninja. Vabbè, siamo veramente curiose di ascoltare, vediamo la vostra opinione. Vediamo come va. Allora, Slim, stasera tiri. Sì. Allora, le corde. Posso fare una breve parentesi nerd sulla questione del furto e del taglio delle mani? Vai. Okay, così. Perché, sì. A parte che adesso applausi in quel dell'Emerson. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie, adesso vi delizierò, eh. Grazie per l'incoraggiamento. Studiando storia sociale ed economica del Medioevo, stiamo studiando delle documentazioni, statuti dove ci sono mille regole su tutto, e c'è questa cosa molto divertente che il furto è punito in maniera corporale e molto più gravemente rispetto all'omicidio. Ed è partita questa discussione. Perché? Come mai? E alla fine si è concordato bene o male le persone che partecipavano che il furto in un tempo difficile e duro come il Medioevo era peggio di un omicidio. Perché? Oh. Perché se rubi qualcosa che non può essere sostituito e che ti serve per far mangiare tante persone è molto più grave che farne fuori uno. In questi tempi di pandemia in cui si fa così tanto caso alla morte, magari potremmo rivalutare anche, insomma, le nostre priorità. Cioè, alla fine, forse se muore qualcuno in più non fa così male. Stiamo tornando nel Medioevo. Vabbè, siamo forse nel Medioevo? Sì. Oh, scusate comunque per questa uscita, spero che Radio Wombat non mi censuri. Già censurato. Censura. Ma io ora verrei a... A proposito di Medioevo. No, partiamo da prima, verrei da certe celebrità del supplizio. Cioè, supplizi famosi che sono entrati anche in modi di dire, no? Tipo, supplizio di Tantalo. Supplizio di Tantalo. Dimmi di più. È questo modo di dire che indica il tormento di chi desidera moltissimo qualcosa che non può ottenere. Citato in molte opere letterarie, per esempio in Se questo è un uomo di Primo Levi, il supplizio di Tantalo viene richiamato per indicare i sogni degli internati nei campi di concentramento nazisti che per la fame muovono le labbra e digrignano i denti immaginando di masticare del cibo. Okay. Qualcosa di straziante. Terribile. Si tratta di un'espressione che deriva da un racconto della mitologia greca. Tantalo, primo re della Lidia, una regione occidentale dell'Anatolia, era figlio di Zeus e della ninfa Pluto. Gli dei dell'Olimpo erano soliti frequentare la sua mensa, ma Tantalo compì numerose infrazioni alle regole. Era un anarchico. Gli piaceva banchettare in maniera strana. Tra le più gravi, il sequestro di Ganimede, un bellissimo fanciullo che era coppiere degli dei e favorito di Zeus, e il furto del nettare e dell'ambrosia, le bevande sacre della divinità, che Tantalo distribuì ai suoi sudditi. Ma per queste sue colpe Tantalo fu umiliato e deriso dagli dei e decise di vendicarsi cucinando loro le carni di alcuni giovani che avevano fatto uccidere. Era infatti convinto che non si sarebbero accorti che si trattasse di carne umana. Giunti al banchetto invece gli dei compresero la sua ennesima nefandezza e Zeus lo colpì con un fulmine. E gli disse mo basta, eh? E lo fa precipitare nell'Ade. Anche meno Tantalo. E come punizione nella sua vita ultraterrena Tantalo fu costretto perennemente a consumarsi di fame e di sete. Infatti fu legato ad un albero ricco di ogni quantità di frutti e venne immerso fino al collo in un lago di acqua dolce. Ma se provava a mangiare o a bere i frutti si allontanavano e il lago si prosciugava. E questo tormento si aggiunse alla minaccia costante di un enorme macigno che incombeva sulla sua testa. Una dimensione tranquilla comunque. Ho fatto un sogno del genere una volta. Oddio. Davvero? È stato un supplizio? Mi sono svegliato, diciamo, non proprio bene. Ma sono quelle sensazioni che... Vabbè, che ogni tanto non fanno male però, dai. No, infatti. Reverendo stasera spietatissimo. E vabbè, allora io sono veramente distratto da tutto quello che sta succedendo intorno a me, per cui farò tutta la serata uscirmene con frasi a caso. Ti capisco. Ogni tanto potremmo descrivere un po' il nostro surroundings. Ad esempio di fronte, proprio a me in questo momento, ci sono delle persone che escono da una sala concerti. Oddio. Qualcuno ci ha anche sorriso. Ci sorridono, grazie, che bello. Non siamo così disagevoli forse allora. Io descriverei, cioè farei parlare un secondo il mio compagno di seduta, che è una cara voce in questa radio. Ciao, sono il dottore. Ciao dottore, ciao. Senti, ma io avevo capito che questa era l'arte del bar, è giusto? Ho sbagliato puntata. Potrebbe diventarlo. L'arte dello spritz. L'arte dello spritz. O l'arte del supplì. Piuttosto che parlare di supplizi, parliamo di supplì. A proposito, cioè, c'è un banco del fritto qua. A proposito di surrounding, qua Next Emerson, Franco Certo e l'altro, se vi capita, mozzarella in carrozza, patate fritte, coccoli. Ma infatti veniteci ad ascoltare live piuttosto. Col vostro cartoccio alzate in mano. Alzate il culo e venite all'Emerson. Sì, però in effetti si sente meglio, secondo me, in radio la nostra voce. Alzate il culo, venite all'Emerson con le cuffie ad ascoltare la radio. Sì, portatevi le cuffie. Sì. Comunque salutiamo il dottore che è qua di fianco a noi. E... Doctor. Allora, in questo momento comunque nella sala di là c'è un cambio palco, la gente ci guarda comunque in modo strano, c'è un cambio palco per cui c'è della musica strana sparata dalle casse, tipo punk, hardcore. Vabbè, alziamo un po' sto tappetino che non fa mai male. Vociare, vociare. Sì, allora, io ci tenevo a dire che questa puntata è anche dedicata al supplizio sonoro. Perché non è giusto stare male dentro e basta per le cose che succedono fuori, anche per le cose che uno decide di ascoltarsi. Che poi diciamolo, la musica vogliamo che rispecchi il nostro stato emotivo interiore. Assolutamente, sarebbe meglio, sarebbe molto coerente, insomma. Sì, lo è. Per un'autogestione del supplizio. Esatto, assolutamente. Impariamo ad autogestircelo, diciamo. Assolutamente sì. È bello anche stare male, cheat. Io adesso sto accogliendo questo mio disagio. Va bene. Non lo sto forzando. Non mi sembra giusto forzarlo comunque. Mi volete sempre sorridente? Fuck you bitches. Fuck you. Yes. Allora veniamo a dei celebri supplizi. Slim si distrae. Sì, c'è un via vai. Ma qualcuno può portare un supplizio? Allora, celebri supplizi. Tipo la birra che è finita sul mio computer prima. Grande supplizio. Vabbè, quello è anche un colpo di Oku. Oku? No, ci sono cani che girano fra i cavi. Ah, cani di... Cani di merda! Mi dissocio da questa affermazione. Allora, un supplizio molto conosciuto è quello della ruota, per esempio. Supplizio della ruota, avete presente? Dove ti legano a una ruota, ti spezzano braccia, gambe e ti fanno girare. Poi le braccia rotte le infilano dentro i raggi della ruota, fanno girare. Ma scusa, possiamo passare? Girare, tu mi fai girare come fosse un supplizio. Era, insomma, questo supplizio famoso. Possiamo parlare al passato, per favore. Ah, ok. Era un supplizio che però ha un rischio. Cioè, collegabile al presente, però chi erano i principali condannati a questo supplizio? Cioè, ladri, sempre i ladri. Sì. Ladri, l'abbiamo capito, erano la peggio feccia. Si è sempre sperimentato qualsiasi genere di supplizio sui ladri. Però in tempi di pandemie passate, tipo la peste nera, e gli untori, presunti untori, eccoli lì, venivano condannati alla ruota. In piazza pubblica, capito? Va. Ottimo, ottimo. Perché si sapesse tutto chi erano. Ma infatti poi arriveremo a parlare delle esecuzioni pubbliche? Delle distinzioni sociali in queste pratiche, insomma. Okay, alla fine okay. A farne le spese, ad essere vittime, sono sempre stati soprattutto i poveri. Mi immagino a fatica un vescovo torturato, effettivamente. Effettivamente. Magari lo impiccavano se tradiva, difficilmente, ma una lunga tortura no. Beh, grazie per queste informazioni preziose, io non mi ero mai documentato in verità, non sono mai stato a un museo della tortura. Neanche io. Lo devo ammettere. Neanche io, mi hanno sempre. No, i miei genitori non mi hanno mai voluto lasciare andare. Dov'è? Ma penso ce ne siano vari in giro. Ce ne siano vari, vero? Sì. Da bambino forse ce n'è uno anche a Napoli. Sempre sognato di andare a vedere uno a Torino, sicuramente. No, non è vero. Anche a Gioia Tauro. A Torbella Monaca. Perché fischia tutto? Fischia il vento. Vabbè, alziamo un attimo sto tappetino. Allora, il dottore ci vuole portare una birra, ne abbiamo già rovesciata. Io vi porto una birra se non la rovesciate. Va bene, dai. Dovete rovesciarla nel vostro stomaco. Grazie dottore, ti aspettiamo. Ah sì, a Milano sono state ritrovate delle ossa di questo giustiziato tramite la ruota, e quindi sì, presentava tutti i segni della rotazione e sembra che questo individuo fosse uno storpio, e quindi cioè aveva già delle malformazioni fisiche, capito? Quindi era la sua colpa? Nel momento in cui hanno dovuto decidere chi sacrificare, hanno detto: lui, lo storpio, uccidiamo lui. Ah, è pesa sta roba. C'è un soundcheck in atto. Per me è peso il soundcheck attualmente. Facciamo sentire il soundcheck e rendiamo partecipi. No, vabbè, troppo tardi. Siamo abbastanza disconnessi stasera, cioè tutto tranne che continuativi, cioè non riusciamo a finire un singolo discorso, però insomma sai com'è. Allora, secondo me se noi riuscissimo a fare un discorso coerente e lucido in questa situazione saremmo non umani. E non sarebbe un supplizio per non voi. Non sarebbe un supplizio, quindi non è giusto. Ci stiamo pure ribaltando. Va bene, allora io farei giusto una pausa da questo rumore, visto che siamo già partiti almeno da un quarto d'ora. Vogliamo allora, vabbè, mettiamo Stuck in the Middle with You giusto per iniziare con calma, poi andiamo sulle tresciate vere, d'accordo? Siamo d'accordo. Un momento di pausa con un po' di musica. Spingi. Vera. Ci vuoi introdurre questo brano? Che cos'era? Cosa significa? Questa è la colonna sonora di un famoso film. E se indovinate, vincete una mozzarella in carrozza. Mandateci. Che comunque dovete venire a prendere qui. Sì, buono, ce l'abbiamo qua. Insomma, scriveteci sul pad e indovinatelo. Ale, pigia ale. Play. Posso farcela. E ritorniamo a bomba. Parte del supplizio. Avevo staccato il microfono. Ci siamo, ci siamo. Mi sentite? Mi sentite? Salve. Allora, torniamo a bomba con un altro suppliziato famoso della mitologia. Vogliamo sapere come sta andando la partita di biliardino? Sarebbe interessante. Faremo, c'è quanto... prendi il mio microfono che c'è il cavo più lungo. Questi non ci arrivano. Va bene, siamo sempre qua in diretta. Come ragazzi, un contributo per la radio. Come sta andando la partita di biliardino? Come sta andando? Diciamo che per ora c'è un vantaggio dovuto a delle scorrettezze di gioco che non sono state segnalate dall'arbitro. Ai. C'è della scorrettezza in campo? Ma sì, assolutamente. A quanto sono i rossi? Si soffre? Si soffre perché queste ingiustizie hanno portato alla vittoria della squadra avversaria. Queste ingiustizie è un supplizio? Assolutamente, in questo spazio non dovrebbero essere presenti. Questa è una cosa importante, grazie. Bene, ritorniamo qui al tavolo della regia con questi contributi che sono veramente fondamentali. Lo sport. È domenica, ha vinto anche oggi, ha vinto lo sport. Questo per rimanere nel real, qui è tutto live. È tutto live, il banchetto dell'ingresso fra il bagno e la biglietteria. Sì, mentre stavamo mandando il pezzo di prima allo stacchetto musicale, stavamo proprio commentando sul fatto che non poteva andare altrimenti. Cioè, se questa puntata non, cioè, per farla venire uno schifo, dovevamo per forza metterci in una situazione di supplizio, e questa probabilmente è l'occasione più pesa in cui tenere della concentrazione. Ragazzi, ma la crescita è al di fuori delle zone di comfort. Quanto stiamo crescendo in questo momento insieme, affrontando questa situazione non di comfort. Non c'è crescita senza sofferenza. A meno che non ti tirino le braccia. Lì non cresce molto. Della ruota. Lì è la fine, ma infatti lasciatemi tornare a bomba su Prometeo. A Wombat. Su Prometeo. Questo famoso lo conoscerete tutti, no? Prometeo, sì. Quello che ha dato... Sì, ma non facciamo shaming a chi non lo conosce. Allora, ha dato il fuoco agli uomini, e gli uomini senza fuoco morivano esiliati sulla terra. Allora Prometeo gli dona il fuoco e per questo viene punito. E praticamente Zeus ordinò a Efesto di costruire una donna bellissima di nome Pandora, la prima del genere umano, alla quale gli dei del vento infusero lo spirito vitale che tutte le dee dell'Olimpo dotarono di doni meravigliosi. Si racconta che Zeus la invitò da Epimeteo affinché punisse la razza umana, alla quale Prometeo aveva dato il fuoco divino. Epimeteo, avvertito dal fratello di non accettare i regali da Zeus, la rifiutò, così che Zeus, più indignato che mai per l'affronto subito, prima dell'uno e poi dell'altro fratello, decise di punire ferocemente il titano e tutti gli uomini che egli difendeva. Il padre degli dei fece incatenare Prometeo nudo nella zona più alta e più esposta alle intemperie e ordinò che gli venisse conficcata una colonna nel corpo. Inviò poi un'aquila perché gli squarciasse il petto e gli dilaniasse il fegato, che gli ricresceva durante la notte, giurando di non staccare mai Prometeo dalla roccia. Epimeteo, dispiaciuto per la sorte del fratello, si rassegnò a sposare Pandora, ma essa sventatamente e per pura curiosità aprì il vaso donatole da Zeus, adempiendo così al pianto del re degli dei. Adempiendo al piano del re degli dei. Comunque un po'. Un po' il pianto. Sì, c'è da piangere, perché infatti aveva chiuso all'interno del vaso tutti i mali che potessero tormentare l'uomo: la fatica, la malattia, la vecchiaia, la pazzia, la passione e la morte. Beh, la passione, parliamone. Essi uscirono immediatamente, si sparsero dagli uomini, solo la speranza, rimasta nel vaso tardivamente richiuso, da quel giorno sostenne gli uomini anche nei momenti di maggior scoraggiamento. E poi la speranza. Che bello. Ci fossero degli applausi in questo momento, li farei partire. Non sono partiti. Niente applausi per Slim, mi dispiace. Allora, io ci tengo a dire che non vogliamo fare cioè, ridere della sofferenza. Sappiamo che ci sono, soprattutto di un bomber come Prometeo. Vabbè, Prometeo ha avuto anche le sue colpe, insomma, da era un maschio cis hetero. Dai, cioè da come si dice, la hubris. Vigne. No. Insomma, da Cedro del Libano. No, il fuoco. Mi era sfuggito. Il fuoco deve essere principi di tutti i mali, no? Cioè, quella prima tecnologia che poi... Vabbè. Però il fuoco riscalda. Il fuoco riscalda. Come ti riscaldi senza fuoco? Però ti rincoldinisce anche. Un po'. Dici che Prometeo è stato il primo rincoglionito dai fumi generici, sì, in questo caso del fuoco. È stato il primo che ha portato lo smartphone, tipo, no? Cioè quelle cose. Prima vorrei fuoco. Riuscire a mandare indietro la faccia. No. È una faccia incredibile. Allora, cara entità all'ascolto, dovete sapere che Slim, quando si concentra, è veramente... È incredibile. Bellissimo. Faccio le facce. No, ma stava comunque cercando di portare un contributo che ha un suo valore. Cioè, lui stava cercando di dire che comunque in qualche modo la tecnologia, in questo caso identificata nel fuoco come primo strumento tecnologico per progredimento dell'umanità, è stata poi in realtà la causa di tutti i mali. Grazie, ma mi hai letto nel pensiero praticamente. Ci siamo connessi. In tutto questo caos riusciamo a trovare le nostre connessioni. Grazie di dare parole ai miei pensieri informi. Che bello, Genge sta sfastidiato stasera. Ma insomma, cosa ne pensa il dottore? Qual è? Facciamo la prima domanda. Ok, una prima domanda al pubblico. Abbiamo una domanda al pubblico. Dottore. Sta partendo ora un concerto, per cui l'audio non sarà esattamente dei migliori. Va benissimo. Allora, la domanda che rivolgiamo a tutte le entità all'ascolto, rivolgeremo anche a tutte le entità qui passanti che molesteremo, sarà: qual è il vostro supplizio? Qual è il tuo supplizio, doctor? Il mio supplizio, guarda, ve lo dico subito in modo molto chiaro, ed è un supplizio a cui sto andando incontro proprio adesso nei prossimi 5 minuti, ed è quello di dover andare via da una serata come questa, dover andare via dal bar e dalla radio, perché devo farmi un tampone. Il mio supplizio è questo adesso. Nel naso. Noi proviamo pure a fare una puntata simpatica, no? Della domenica sera, magari c'è la gente a cena, invece no, le cose pese. Ma ragazzi, la domenica ha il gravissimo difetto di essere il giorno prima del lunedì. Infatti vado a vedermi 5 minuti di concerto e poi vi saluto. Doctor! No. Alziamo un attimo a sto concerto, proviamo a sentire un po'. Ok, vabbè. Era ancora il soundcheck. Questo è molto bene. Ci tengono alla qualità audio, ragazzi. È vero. Ma Slim, dove ci vuoi portare dopo Prometeo? Dopo Prometeo tornerei alla ruota. La ruota del supplizio, che è stata raffigurata. Cioè, si è detto una speranza prima, no? Si è parlato di speranza come ultima cosa rimasta nel vaso di Pandora. Ah, certo. E questa speranza si ritrova anche in una famosissima raffigurazione di questa ruota, e forse molti di voi conosceranno i tarocchi di Marsiglia. Certo, chi non li conosce. L'arcano numero 10, appunto, la ruota, che rappresenta una chiave simbolica di questa ruota da tortura, e con il fantasioso nome di ruota della fortuna. Ah, ok, quindi con un significato inverso. Con un significato di alternanza. Adesso ma era una perculata? No, è vero. Era vero? È vero, l'arcano numero 10, ruota della fortuna, rappresenta appunto questa ruota di tortura, in cui il decimo arcano maggiore dei tarocchi presenta appunto il movimento di questa ruota, su cui sono appoggiate tre strane creature. Quella di sinistra è rivolta verso la terra, che simboleggia la materia, mentre quella di destra invece è rivolta verso il cielo, simbolo della mente. Al centro della ruota si trova la terza creatura, la cui caratteristica è la stabilità. Tiene una spada e porta sulla testa una corona, il che le conferisce autorità e legittimità. La ruota quindi rappresenta un marchingegno che nessuno è in grado di controllare. Tuttavia, il suo movimento continuo indica il cambiamento e l'alternarsi di cose positive e negative. Quindi ci sono momenti in cui la ruota ti porta sott'acqua o contro delle punte taglienti, e però c'è anche la risalita in cui si riprende fiato e si guarda il panorama, prima di poi ritornare verso l'acqua e le punte taglienti, no? Una grande metafora della vita, questa ruota della tortura che gira, alti e bassi. È inarrestabile, indipendente da noi. Almeno possiamo gridare un dio boia. E sì, se vogliamo, se sì, ci sta glorificando bene. Il boia come dio in questo caso. Dio è un po' boia. Se si crede alla sua sento rumori dalle altre stanze. Questa ruota è spesso interpretata come la ruota della vita e della morte. È indice di cambiamento. Ed essa corrisponde il numero 10, che può essere interpretato come la conclusione del primo ciclo di queste carte. È un po' una summa che tutto gira e gira e gira e gira. Io sono d'accordo. E le dinamiche della vita sono circolari, mai lineari. Anche i supplizi hanno un senso. A proposito di supplizi che hanno un senso, io vorrei dare un senso a questa dinamica, no? Diretta, in cui c'è una conversazione in atto, e leggere un po' dei contributi delle persone in ascolto. Oh, finalmente qualcuno ci scrive. E persone che vogliono condividere la loro visione di cos'è il supplizio. Innanzitutto qualcuno ci rinfaccia un po' la nostra volontà di uscire dalle zone di comfort, dicendo no, fanculo, viva la zona comfort. E diciamolo, dai, forse abbiamo peccato un po' di hubris, forse in realtà la zona comfort ci piace. Tanta roba. Tutta. Sì, però se fossimo rimasti a frittole ci saremmo persi i concerti. Esatto, quindi entità in ascolto che ama così tanto la sua zona di comfort. Vedete però a cosa ci porta a uscire fuori. Pensiamoci. E poi un altro, come si dice, contributo. Un altro contributo, il supplizio vero, rega, alzarsi la domenica quando sei sotto il piumone e con due chi te lo fa fare. È vero, cazzo. Evviva, super. D'accordo. Piumone, tanta roba. Allora sì, in tutto questo continuiamo ad alzare il tappetino come se non ci fosse un domani, come se voi poteste pure distinguere delle note in tutto questo. Sappiate che è un enorme mescolio di onde e non ci riguarda. C'è da dire che sti ragazzi suonano forte, però sono gagliardi. Ma io adesso, però, avendo letto questi contributi delle persone in ascolto, mi è venuta la curiosità. Voglio sapere, persone che sono qui con me, Slim, Reverendo, questi sono i vostri supplizi? Allora, vabbè, io ci avevo pensato, ma è anche sfuggito di mente, chiaramente. Però volevo dare un consiglio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, che quando avete bisogno di, o almeno io spesso ho bisogno di farmi un po' di male uditivo, io ascolto Radio Merda Malata. Quindi vabbè, questo è un consiglio importante. Radio Merda Malata è fatta da dei carissimi amici, viene ospitata su Streampunk come Wombat, per cui andate su s.streampunk.cc o cercate Radio Merda Malata su internet e la trovate, insomma. Questo è il supplizio che mi concedo più spesso. Invece il mio supplizio, che nasconde anche una vena di piacere un po' masochista, è guardare tipo Radio Italia, i video tipo Radio Italia, quelle cose lì, o Onda Latina, cioè Radio Onda Latina, sì, la TV trash, insomma. La TV trash con i video musicali più trash, però sparata su mega schermo tipo in pizzeria. Io potrei scegliere di starmene in un tavolino guardando alle spalle alla televisione, invece scelgo proprio quello che mangio la pizza guardando questa merda, a volume chiedo anche di alzare, sì, e quindi il male è un supplizio male. Per me sguazzare nelle viscere più putride dell'umanità, esatto, riempiendomi di carboidrati e godendo del supplizio dei tavoli accanto anche, sì. Ecco, ci siamo stati invasi dai canidi che per fortuna non hanno fatto danni. I cavi sono ancora tutti attaccati. Beh, allora forse a me è venuto in mente un altro supplizio. Vai. Che mi concedo. Siamo agli applausi un attimo. Salutiamo Nico dei Marnero. Io sono curioso di sentire Gengè. Cosa? I miei supplizi. Effettivamente c'è una differenza fra il supplizio ad un posto e il supplizio che te l'accolli, perché te l'accolli. Per me il supplizio che uno si deve accollare è svegliarsi la mattina quando non te vuoi svegliare. Cioè, io proprio quello è uno dei momenti peggiori della mia esistenza, quando vorrei solo e unicamente continuare a dormire e non posso per qualsiasi ragione. È una tortura. La inserirei all'interno della top 10 delle torture cinesi, per quanto mi riguarda. E poi ci sono i supplizi autoimposti. Salutiamo il dottore che ci abbandona per dottore. Il suo personale supplizio. E i supplizi autoimposti, come dicevi, dove c'era Slim, quelli un po' masochisti, quelli non lo so, ci devo un po' pensare. Magari ci penso un attimo. Va bene, io... Però devo dire che c'è una parte di me che ha sentito molto quello che hai detto. Non lo definirei proprio come supplizio, però un po' di masochismo nel trash e nel putrido io lo sento molto comunque. Anche spesso quando torno a casa e sono immersa nelle dinamiche delle mie radici, lì c'è molto marcio, però è anche bello da un lato. Oppure un supplizio può essere un supplizio burocratico. Quando mi sento soverchiato dalla burocrazia è... Vero, verissimo. Andare ad uffici. Per me è un supplizio, esatto, bravo. Quando devo avere a che fare con le segreterie universitarie, quando in generale devi avere a che fare con un muro di gomma che non puoi aggirare in nessun modo, è un cazzo di supplizio. Ti vedo un po' spaesato dalla musica, reverendo. Non sto capendo, mi dispiace. Non ho nessun contributo utile in questo momento. Se volete... Perché suonano forte sti ragazzi. Il microfono loro è spento, cioè entrano solo nei nostri. Allora, se volete con questo sfondo sonoro, posso parlarvi di un paio di torture cinesi. Volentieri. Sono delle cose veramente, veramente atroci. Non vogliamo veramente fare dell'umorismo su ciò, perché sappiamo che ci sono persone che le hanno subite veramente e le subiscono tutti i giorni, e stiamo cercando di sdrammatizzare per quanto riguarda i supplizi figurati, quelli di sopportazione quotidiana, ma ci teniamo a sottolineare che le torture e le violenze sono quotidiane realmente per molte persone, tantissime persone situazione di guerra, in situazione di sfruttamento. E per cui lungi da noi, lungi da noi cioè fare dell'umorismo sulle torture, quelle vere. Vorremmo però fare dell'informazione, ad esempio torture ancora in atto in Cina, e ci sono delle minoranze che vengono ancora torturate, e insomma c'è, cioè questa che mi ha colpito particolarmente atroce, l'alimentazione forzata, in cui la persona è legata con differenti strumenti di tortura per limitarla nei movimenti. Alla vittima viene poi infilato un tubo in bocca o nel naso che causa il danneggiamento della cavità nasale o orale. Poi viene versato in un imbuto dell'acqua salata concentrata, sciroppo di amido appiccicoso, succo di peperoncino, acqua, medicine irritanti, liquori forti, urina ed escrementi. Questa miscela viene utilizzata sia per nutrire le persone, sia per infierire su di esse. È un tipo di tortura del genere, può non portare alla morte, che è quasi peggio, cioè in certe situazioni penso che ci si auguri di morire. Penso sia proprio quello il punto della tortura. Sì, assolutamente, penso sia quello. Maronna. Infatti dicevamo prima che la tortura penso si possa identificare proprio dove c'è quel sadismo, no? Perché c'è la differenza tra tortura e dolore. E dove c'è potere. Bravo, esatto. Tortura. Il sadismo ha a che fare con una relazione di potere, certo. E sia il sadismo sia la tortura è uno strumento di potere, è sempre stato uno strumento di potere, fin dall'età del ferro, le punizioni corporali in piazza sono state documentate, sono stati fatti ritrovamenti archeologici che appunto dimostrano che la tortura nasce con la civiltà, appunto per dichiarare qualsiasi affronto fatto nei confronti delle classi dominanti, come ad esempio il furto che abbiamo citato prima. Quindi una persona, diciamo, povera, se ruba a uno ricco, ti taglia una mano, ti taglia un dito, ti costringo a una punizione corporale. E partendo da questo possiamo ricollegarci a una tesi di laurea molto interessante, firmata, adesso ve lo dico, scusatemi, da Iside Giorgi. L'abbiamo già infamato. L'abbiamo già, sì, infamato. Ragazzi, non ce la possiamo fare, eh? Ce la possiamo. Se ne parlava prima in macchina. Ma no, ma comunque non l'ho pronunciato bene questo nome. Però merita un riconoscimento, perché l'ho trovata una tesi molto interessante, anche se letta un po' a salti. E, insomma, si chiama Critica sociologica del supplizio postmoderno. E appunto delinea questa connessione, questa identità fra supplizio e potere, e affrontando anche questioni di genere e questioni, insomma, proprio di corpo, come i corpi dei poveri siano più inclini alla tortura rispetto ai corpi dei nobili. È risaputo, no? Abbiamo corpi diversi, i poveri hanno corpi più torturabili rispetto ai ricchi, no? Tu pensi che abbiano dei corpi più torturabili o forse la loro condizione che è più strumentalizzabile per il potere, semplicemente? Forse è proprio così. Sì. Cioè la prima? I corpi. No, la seconda. Ah, la seconda. Ok, non avevo capito. Beh, certo, okay, se parti da una base di salute già misera di tuo, perché sei povero e quindi non è che godi di tutta questa salute, forse alcuni tipi di torture le senti anche di più. Però diciamo che secondo me su una bella ruota della fortuna pure il più grasso dei papi non ci sta bene. Sì, esattamente. E praticamente prendo un po' di cenni storici da questa tesi per darvi degli spunti. E, praticamente per molti secoli tortura e sistema giuridico hanno rappresentato una coppia male assortita e tuttavia fedele e affettuosa. La tortura è stata a lungo parte del diritto processuale penale e le biblioteche giuridiche sono colme di dotte trattazioni nelle quali chi insegna e si insegna come quando bisogna torturare nell'ambito del processo giudiziale. la tortura per vari secoli è stata materia di insegnamento e sì pure di studio e ricerca nelle facoltà di giurisprudenza. Praticamente vari grandi giuristi sono stati teorici della tortura e in qualche caso persino torturatori egli stessi. Beh, in realtà la cosa non mi stupisce più di tanto, considerato che comunque ancora tuttora, in senso magari più lato, o forse perché è noi contemporaneo e quindi le cose che ci sono contemporanee sono sempre più difficili da leggere in un'ottica distaccata. Però se ci pensate, anche tutte le fasi di teorizzazione dei vari 41 bis, del modo in cui è vissuto il carcere all'interno degli strumenti giudiziari e del sistema penale, stiamo parlando in tanti casi, si parla in tanti casi, chi lo studia sotto questa prospettiva, di torture, solo che forse noi li vediamo dal nostro punto di vista contemporaneo, cioè è più difficile vederlo, forse effettivamente provando a inserirsi nella dimensione del tempo, non è, cioè adesso ci sembra folle che qualcuno studiasse le torture in quel senso, però in realtà alla fine era perfettamente coerente e in parte certo, lo facciamo tuttora. Ma certo, oggi si chiamano diversamente, si chiamano tecniche di interrogatorio potenziato. Eccoci. Ma Guantanamo, esatto. Penso fosse questa la terminologia coniata proprio, esatto, per legittimare gli interrogatori ma di sì, Guantanamo. Di esempi ne abbiamo anche al G8 di Genova, ne abbiamo in Cile nelle proteste di 2 anni fa. Certo, ma come diceva Gengè, nelle carceri anche italiane, il 41 bis o vari regimi speciali in cui persistono ancora celle lisce, in cui non c'è niente, cioè c'è un letto che è un asse di ferro e un buco davanti all'uscio in cui cacare e basta. Per cui lo Stato, vabbè, per quanto mi riguarda lo Stato ora è il più grande torturatore. Certo, però ci sono due tipi di tortura, c'è la tortura ufficiale, diciamo, e la tortura silenziosa. Ovvero ci sono dei periodi in cui la tortura viene teorizzata, ci sono dei periodi in cui viene messa anche su legge, no? Anche nero su bianco, e ci sono periodi in cui la tortura viene condannata, tipo nell'Occidente moderno, e ci sono condannata formalmente per poi essere utilizzata in altre forme, e ci sono invece periodi come l'Alto Medioevo in cui la tortura non è messa su norma, ma è semplicemente praticata, autogestita dai poteri locali, come viene in mente la mafia o le organizzazioni criminali, fanno abbondante uso di sistemi di tortura, ma non se ne fanno troppo pubblicità, se non per intimorire gli avversari ma di certo non si mettono a scrivere libri o teorie su questo, no? No, infatti forse da questo punto di vista fa più paura uno Stato che teorizza cercando di mettere all'interno di paletti, diciamo, morali quello che a tutti gli effetti è una tortura, piuttosto che una pratica tortura esplicita. Proprio. Sì, sì, cioè la mafia ti fa paura per tutta una serie di motivi, perché utilizza anche la forza bruta e quindi anche la tortura. Lo Stato, se vogliamo, ha sempre quell'elemento in più della maschera, che è quello che lo rende forse più pauroso di tutti, perché è difficile da identificare. Sì. Comunque volevo fare. Siamo andati sul serio, ma restiamoci. Ci tenevo a precisare appunto un'evoluzione della tortura nella storia umana. È appunto un'evoluzione a narrativa oltre che fattuale, e ritornando alla tesi sopracitata, parliamo di tortura nell'antichità. Si può affermare pertanto che i torturati dell'antichità appartenevano alla stragrande maggioranza dei casi alle classi sociali più povere e sfruttate, ai membri delle quali non venivano riconosciute le qualità umane in quanto considerati degli oggetti essere cosificati. La tortura svolgeva in questo contesto la funzione di demarcatore sociale. Le economie schiaviste hanno sempre richiesto il supplizio fisico intenzionale, ed è difficile immaginare di poter organizzare la schiavitù in un modo in cui tale dolore costituisca una caratteristica accessoria. Quindi la tortura come base della schiavitù. Poi, come dicevamo, nell'alto medioevo gli schiavi, compresi quelli presenti nei regni barbarici, continuarono a conservare la qualifica di classe torturabile, ma la concezione privatistica dei delitti e del processo penale, la contaminazione del diritto con quello di altre popolazioni del nord, nonché di segmentazione del potere e delle proprietà, portarono a un parziale silenzio della tortura. Quindi nel Medioevo si perde un po' la faccia istituzionale della tortura, per poi tornarci a bomba nel tardo Medioevo con la caccia alle streghe, dove lì c'è il rinascimento della tortura e della narrazione della tortura e un ampliamento delle fantasie sadiche a livelli inimmaginabili. Possiamo dire forse perché l'obiettivo principale di queste torture erano le donne? Sì, le donne in quanto corpo torturabile, come gli schiavi, che considerate più o meno alla stregua di cose, considerate come proprietà, e donne ribelli, insomma, vabbè, consigliamo come al solito la lettura di Caliban e la strega per approfondire queste tematiche. E anche anche la zucca, un salutone. Insomma, le torturate durante la caccia alle streghe, come si è già accennato, erano donne appartenenti alle classi sociali più povere e non di rado erano anziane. E di norma la classe più debole, quella delle donne anziane, strane, vedove, nubili e povere, il capro espiatorio del panico sociale, alimentato dall'autorità politica per la propria sicurezza, per spiegare e neutralizzare le sciagure naturali e le epidemie, come nel caso della ruota di cui parlavamo prima, ma anche la crisi delle classi più povere a fronte della nascita del capitalismo agrario. Insomma, con la nascita del capitalismo agrario, la privatizzazione delle terre, e le classi dominanti si sono cacate in mano e hanno dovuto trovare capri espiatori, ma hanno scelto la stregoneria, comunque alimentata da tutta una serie di credenze, però distorta. Infatti la prima propaganda della storia è stata durante la propaganda contro le streghe. I primi dépliant, come riconoscere una strega, sono state le prime stampe utilizzate e diffuse a fini propagandistici. Esatto. Very interesting. E a proposito, potremmo fare dei cenni sulle 10 peggiori torture dell'Inquisizione. Se vi reggono le budella, ve ne posso citare. Ai. Ne posso citare un paio. No, tanto per capire dove si può spingere la fantasia umana. La creatività sadica sempre al fine di difendere un potere costituito, certo, perché è quella la benzina alla base di questa fantasia. Infatti bisogna sempre domandarci, non tanto naturalizzare la tortura, ma tanto sempre domandarci, ma cos'è che spinge l'essere umano a infliggere dolore agli altri. E questa è secondo me un argomento lungo e complesso. E perché spingere altri esseri umani a infliggere punizioni ad altri esseri umani? Cioè, come, e quella è la chiave di lettura che nella tesi sopracitata traspare, e da un po' all'inizio, è come il potere è arrivato a spingere dei torturatori a torturare dei torturati. Sì, per me la chiave è sempre il potere. È certo, perché il boia comunque è pagato. Lo farà anche per passione, forse, per vocazione. Io penso che in tutti i sistemi di potere chi diventa mandante del potere, quindi come può essere un boia, come può essere un secondino, può essere un SS, chi diventa mandante di un sistema di pratiche di attuazione del potere, di potere verticistico, di potere verticistico, non distribuito, assolutamente. Però secondo me la cosa che l'aggancio che poi aggancia le persone a questi sistemi verticistici, penso ad esempio come abbiamo citato, anche sistemi mafiosi. Cioè, cos'è poi che spinge una persona ad essere comunque sotto scacco, sotto ricatto? Perché poi non è che il secondino è libero, non è che il boia è libero, però ha indietro una porzione di quel potere. È una porzione concessa, limitata, è un contentino, però è il modo in cui il potere si perpetua. E anche all'interno del sistema capitalistico questa cosa non è nelle mani della tortura, ma nelle mani dei soldi. Cioè, avere una porzione dei soldi equivale ad avere una porzione del potere, che ti fa avere l'illusione di essere dalla parte di chi decide, e quindi di essere parte di quella, di quel sistema di dominanza, quando in realtà ne sei succube come tutti gli altri, perché nel momento in cui non servi più, vabbè, ciao. Grazie Giorgio. Siamo a caso il volume del nostro tappetino, siamo veramente sicuri di starvi distruggendo le orecchie o gli ultimi coni che vi sono rimasti. Siamo sempre all'Emerson qui in diretta, mentre nella sala concerti ci sono appunto i concerti. Siamo qui su Radio Combat, all'arte del vizio, arte del supplizio. E stiamo scrollando un po' di torture inquisitorie. Ma giusto per stemperare un attimo, ci hanno scritto di nuovo sul nostro fantastico pad le nostre miracolose entità all'ascolto, che speriamo continuino a interagire con noi. C'è chi ci scrive, sempre rispetto alla domanda posta da Genge: qual è il tuo supplizio, o perlomeno qual è la cosa che ti fa girare di più il cazzo a questo punto? Olio, il cazzo, vai. O le ovaie, la vagina, tutte queste cose. E vabbè, c'è chi ci scrive: lavarsi i denti dopo il ritorno da una serata. Hard. Ah, sono d'accordo. È difficile. Beh, per me è un piacere, però c'è sempre quella vena di masochismo, come dicevamo prima. Beh, diciamo, questo è un po' chi vede la cura come una fatica e chi la vede come un piacere. Però la serata, diciamo, la fine serata ti mette abbastanza in bilico questa linea. Quando arrivi a casa vuoi solo morire. Esatto. Invece... la cultura della TV ti ha imposto che ti devi lavare i denti dopo ogni pasto, o perlomeno mangiare un chewing gum. I famosi chewing gum miracolosi che ti eliminano il tartaro. Non è vero. E comunque ci dicono anche, c'è un altro contributo, e insomma, fare il nodo al preservativo dopo averlo tolto. È così peso, raga? Forse sì. Forse dipende da in che condizioni arrivi a fine. Sì. A fine serata. A proposito di serata, prima di lavarti i denti, devi fare il nodo al preservativo. Oppure fai ozzozzo, azzozza, i zozzi. Ma perché? E omini nel cestino così. Ma io vorrei chiedere all'entità all'ascolto perché. Cioè, se è una questione di. Io non l'ho mai fatto il nodo. Di liquidi. Ah, vabbè, dai. Ecco, persona all'ascolto, non sentirti in colpa se non lo fai. Esatto. Ci sono persone che sono andate avanti anni senza farlo. Vabbè, però Greta Thunberg piange. Vabbè, a parte questo. Ma poi Greta Thunberg piange? Andrebbe perché nel lo sperma, lumido. Scusate, è inquina? Certo. Ma il preservativo. Che ve mangiate, raga? Ma nodo o no? Il preservativo vale il lumido? Io ho sempre avuto questo dubbio. Ma è di silicone. Ah, non è di lattice naturale? È di lattice. È di silicone latticoso. Ah. No, è lattice. Ma quindi è naturale? Dipende dai punti di vista. No, ma tipo è gomma, cioè è biodegradabile? Chiediamo, secondo me, abbiamo un esperto qua. Scusi lei. Scusi, abbiamo una domanda. Ci ignora. si avvicina in maniera un po' diffidente. Ma il preservativo è biodegradabile? Cioè, pieno d'api? No, biodegradabile? Dipende. Lo butti nell'umido? Non so, no, io non faccio una raccolta differenziata. Ah, ok. Tanto bruciano tutto assieme. Vabbè, grazie mille. Grazie persona ospite. No, allora, vabbè, ci rispondono in diretta, le nostre entità, che il problema pratico è la difficoltà di legarlo. Cioè, sta nella difficoltà di legarlo, perché, insomma, è viscido. Giustamente. E quindi... Però il quesito è, se il preservativo è biodegradabile, e sicuramente lo sperma lo è, a che serve legarlo? Per metterselo in tasca, non lo so. Magari uno non vuole lasciarlo lì, come i mozziconi. Se uno si trova in un contesto in cui non c'è una spazzatura vicina. Ma era per non lasciare la striscia di sperma in giro. Ci sta. Non sentirti in difficoltà, persona all'ascolto. Siamo con te. Ah, vabbè, comunque dobbiamo mettere agli atti questa ignoranza, cioè che non sappiamo se è veramente biodegradabile o meno. Cioè. Io non sono molto esperta, devo dire. Nella prossima puntata dell'Arte dell'Orifizio daremo una risposta a questa domanda. Questa è una cosa molto giusta. Allora, persona all'ascolto, io ti invito a mettere insieme un po' i tuoi dubbi e le tue preoccupazioni riguardo al mondo dei preservativi, se vuoi, e inviarci una mail a frittole@gattini.ninja, e verranno elaborate delle attente e riflessive risposte ai tuoi problemi, che verranno condivise nella prossima puntata dell'Arte dell'Orifizio. A tutti i tuoi problemi, tranquillo. Tutti i tuoi problemi. Bene. Se vuoi mandarci la partita IVA, ti facciamo anche l'F24. Va bene, dai, mandiamo una canzonetta per staccare un attimo. Un supplizio musicale. Sì, questo potrebbe essere vissuto da molti di voi come un supplizio. Ve lo meritate. Però vi chiediamo anche di provare a dare un'opportunità a questa canzone. Comunque ci scrivono, attenzione. Ah, attenzione, c'è stata una risposta live. Ci dicono che hanno appena controllato e i preservativi non sono biodegradabili. Ai ai ai, attenzione, red flags. A meno che non siano certe marche specifiche. Ah. Pro ambiente, giustamente. Scusate, sto sicuramente urlando nel microfono. Va bene così. Va bene, no, ringraziamo per questa rapida risposta, così non ci ha neanche lasciato il tempo di googolare. Slim, indifferenziato, non organico, non organico. Infatti, se si va in camporella si riporta tutto a casa, dai. Ora lo so. Va bene, vogliamo lanciare questo pezzo? Vai, torturiamoci. Anche se in sottofondo c'è un pezzone. Vabbè, io continuo a salutare. Stringete i denti e arrivate fino a fine, voglio. Ci ringrazierete dopo. Tu sei debole in tuo cuore, basta solo lo sorriso e tanto amore, con poco niente, troppo sentimento per un bello complimento. Tu non capisci niente, ti perdi per una bella macchina, per una sera cinema, cara rinta trappola, a trappola l'amore. Dire colpe fulmine, perché si romantica, e se ne approfittano, e riesco solo tu. Ma piano piano, che si esce con cento vogliono nisciole di sposo, e se io non ne porto l'accesa e se vorne ne lagra, i conchietti si sguagliano in mano e pulissimo. Ma piano piano, sono d'accordo a chi tenere le facce da cine e tra braccia, c'ho curtire le pensiere la gente che fuga nell'anima, e diventa un film d'amore fornù da pina. Noi giorni d'anno passate, noi giorni d'anno spugnate, piscione si è innamorato e tu sei sempre fidato se venne sbagliato. Tu sei uno spettacolo ma tu sotto valore finta una classifica avremmo fosse tu. Ma se non giocattela, prende in mano l'uomo, prima si diverte e poi rinete. Pagliano gli anni, ma si esce con cento vogliono nessuno di sposo. E se io non ne porto la chiesa e se vorrà ne ladra, le conchiette si sguagliano in mano e pulissimo. Pagliano gli anni, d'accordo a chi venero e faccio da ciretta a braccio. Sono curti le pensiere la gente non può nell'anima e diventa un film d'amore fulluto a vita. Noi giorni d'anno passate, noi giorni d'anno spugnate, nessuno si è innamorato e tu sei sempre fidato se venne sbagliato. Su fama sa gente i pensieri su cortile da tu buco no go metto troppo sentimento con un bello complimento cara rinda a trappoli l'amore vogliano piano da si esce con cento vogliono nessuno di sposo e se giuro ne porta la chiesa se vuole ne ladra e non pietti si sguagliano in mano e pulisse vogliano piano. È andata così, è finita un po' brusca questo meraviglioso supplizio. Una sfumatura terribile, come è giusto che fosse. Allora, abbiamo qui un ospite. Sì, prendi pure il microfono, caro. Un passante qua. Microfono. Rimarrà anonima. Abbiamo una domanda che stiamo rivolgendo un po' ai passanti, le passanti e anche alle entità nell'etere. Qual è il tuo supplizio? Il mio supplizio sia può essere autoindotto, può essere esterno, le cose sì, sì, un supplizio, qualcosa mi rompe i coglioni veramente. Esatto, è colto nel segno. Che mi dà noia della vita. Sì. Lo stavo dicendo prima a una mia amica. Si parlava di bambini, sul fatto di fare bambini o no, no? Io ho una certa età e i bambini non li... ho scelto già da quando ero giovane di non farli, perché ho sempre pensato di dargli a loro di consegnare a loro un mondo di merda, va bene? E quindi dicevo già all'epoca, dicevo, ma cazzo, cioè, perché devo lasciare poi a mio figlio un mondo di merda? Ora sta diventando sempre più un mondo di merda alla fine. Era quello che si diceva quando io ero giovane. E ora fare un figliolo adesso è veramente consegnargli un mondo di merda. Però c'è anche un altro discorso. Cioè, poi alla fin fine sono loro perché che dovranno salvare questo mondo qua poi alla fine. Perché poi alla fine li abbiamo messi in una condizione di merda. Però lo dovranno fare se vogliono campare. Capito? E quindi magari non farli. Cioè bisogna farli, ma farli bene, farli crescere bene, perché hanno veramente l'ultimissima possibilità di salvare il mondo. Perché oramai noi che siamo vecchi abbiamo fallito, perché siamo arrivati a questo mondo di merda, capito? Quello, cioè, io ho cercato di salvare il mondo tra virgolette non facendo figli, però poi alla fine sono loro che salveranno il mondo, quindi vabbè, è un discorso da vecchio. Ma il tuo in tutto ciò il tuo supplizio qual è? È questa cosa qua, perché poi alla fine gli abbiamo lasciato sto mondo di merda convinti di fare un qualcosa di giusto, però poi alla fine i bambini bisognerebbe farli perché loro almeno salveranno il mondo. Ok. È una cosa. Pensare questa cosa è per te un supplizio. Insomma, è un. Che poi si dirama in tantissime cose, cioè, capito? E poi alla fine questo mondo finirà in merda. Cioè, questa ma è una sì. cosa. Capito? Sì. Che, mi dispiace soltanto di lasciargli questa cosa qua, di rompere. Oh, passo un mio amico che la pensa come me. Ora lo invitiamo anche lui. Vai. Sì, te. Quanto ci vuoi stare qui? Fino alle 10? Questo alle è il bello della diretta. È il bello di stare in mezzo alla gente tu, che passa. Ne hai trovato uno tranquillo di cose da dire, fa chiacchierare la gente. Sì, davvero, davvero. Poi si chiama il... Una domanda. Qual è il tuo supplizio? Vieni qua! Sì, il primo supplizio che ti viene in mente. Vai. Vivere è un supplizio. Come dire? Guarda lo so anch'io. Danno? Abbiamo tanta positività qua, ma. Assolutamente, però sai, sono. Come diceva, i fatti mi cosano. I fatti mi cosano, no? Non ci stanno cazzi, dai, cioè. Io non trovo niente di positivo, insomma, ecco, non. La mia vita è sguazzare da una merda all'altra, quindi che cazzo te devo dire? Ecco, dei rari sprazzi e poi mi rimmergo. Io sarei uno di quelli. La mia apnea sprazzi. Di merda. Momenti fugaci. E... Momenti fugaci. E... Sì, più o meno è così. Più o meno è così. Bene, grazie. Beh, che dire? Sì, no, lo so, infatti il mondo del punk è condito di questa retorica. Di amarezza, giustamente. È anche una certa dose di realismo, comunque. Siamo tutti vestiti di nero, comunque. Sì. No. Scusi, prof, non sono d'accordo. Io mi ritengo molto realista, ma ritengo anche la vita incredibilmente bella, scusate. Sì. Beh, io penso che non salveremo mai il mondo, comunque. Cioè, nel senso, al massimo si può salvare l'umanità, ma il mondo cioè, fa il cazzo che gli pare. Ecco. La vita non è bella perché lo è l'umanità. L'umanità fa cagare, su questo è in dubbio. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che brucia. Vabbè, comunque ringraziamo i nostri ospiti. Grazie ospiti. È una domanda anche a te. altri ospiti. È tutto incredibile. Allora, questa radio di strada. Una domanda. Qual è il tuo supplizio? Non ce l'ho. Non hai supplizio? Vivi bene. Il mio supplizio? Vivi bene. No, vivo di merda come tanti di voi. Come tanti di noi in realtà. Però in questo momento mi prendi un po' la sprovvista, sono così tanti che non saprei quale rispondere. Va bene, allora bocca al lupo. A voi. Bella. Sì, ce n'è tanti di supplizi. Ma cosa dite, torniamo un po' di cultura? Cultura? Torniamo alla tesi? Vai, cos'altro c'è di interessante che vuoi... Vuoi condividere? Ma quindi dopo aver parlato un attimo di tortura nell'antichità, tortura nella caccia alle streghe, veniamo un po' al postmoderno, no? Alla modernità, quantomeno. Perché qua si cita una vasta letteratura storica sul colonialismo e i suoi crimini. E quindi è stato ampiamente dimostrato come il ricorso massiccio alla tortura accanto ad altre misure di oppressione, sfruttamento e terrore, abbia consentito l'instaurazione e il consolidamento del sistema coloniale europeo, sia nelle Americhe che altrove. È stato nelle colonie che si è realizzato l'incontro tra tortura e razzismo moderno, incontro dal quale si è generata una solida coalescenza che tuttora persiste e che costituisce il suo fondamento logico e ontologico. perché quest'ultimo, così come oggi lo conosciamo, il razzismo moderno, ha un luogo e una data di nascita. È nato nelle colonie durante il colonialismo. Il razzismo moderno, come ha efficacemente spiegato il Manuel Wallerstein, non ha niente a che fare con gli stranieri o con la xenofobia, perché a produrlo non è un pregiudizio culturale o ideologico, ma la necessità strutturale del capitalismo di creare ovunque delle gerarchie. Ciò che intendiamo per razzismo ha poco a che fare con la xenofobia che esisteva in vari sistemi storici precedenti. La xenofobia era letteralmente paura dello straniero. Il razzismo interno al capitalismo storico non ha niente a che fare con gli stranieri. Tutto al contrario, il razzismo è stato il modo con cui i vari segmenti di forza lavoro interni alla stessa struttura economica sono stati costretti a porsi in relazione gli uni con gli altri. In una relazione di dominante e dominato. Di squilibrio. Esatto. Per rapinare le terre e le risorse delle colonie, nonché per sfruttare al massimo la manodopera locale, occorreva creare un sistema che fosse capace di ridurre i colonizzati in sottouomini, cose, lavoratori sottomessi e ubbidienti. Quindi sì, una cosificazione dei coloni. La risposta a tale bisogno strutturale del colonialismo fu il razzismo. Si ribadisce con un razzismo inteso come semplice paura dell'altro, ideologia o credenza, ma un razzismo, operazione, che poggiasse interamente sulla violenza, che fosse esso stesso violenza, una violenza complessa con giustificazione incorporata. Il razzismo deve farsi pratica, non è un risveglio contemplativo dei significati incisi nelle cose, è in sé una violenza che si dà la propria giustificazione. Una violenza che si presenta come violenza indotta, contro violenza e legittima difesa. Se il razzismo contemporaneo è inteso come violenza, diventa inevitabile individuare la sua fonte primaria nello Stato, il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica e della violenza simbolica. L'occupazione, l'espropriazione delle terre, la cacciata dei braccianti, il reclutamento, il lavoro forzato, le istituzioni politico-amministrative, le politiche sanitarie, l'istruzione, fino alla repressione e alla tortura, sono state tutte operazioni sostenute finanziariamente e realizzate concretamente dagli stati colonizzatori. La tortura è servita per marchiare e atrofizzare i corpi dei colonizzati, per renderli servili, sottomessi, piegati, il che si traduceva in conferma della loro inferiorità. La tortura è stata uno dei più importanti strumenti utilizzati dalle potenze coloniali per segnare un confine invalicabile tra le razze nei territori coloniali, dagli inizi fino alla fine del colonialismo storico. L'esperienza coloniale europea si presenta in questo senso come un lungo catalogo di orrori. Qui mi fermerei dalla lettura. E avete qualcosa da dire a riguardo? Mi viene da dire, Dio merda, è sempre la stessa storia, lo stiamo ripetendo dall'inizio. Sì, è stata esportata questa forma di controllo sociale. Sì, è interessante, appunto, a parte come chiaramente la soggettazione dei corpi è sempre uno strumento del potere, quindi in questo caso però è interessante questa distinzione che fa con il razzismo moderno e quindi come tutta la modernità questo doppio filo che lo lega al capitalismo e ai suoi bisogni e quindi il razzismo come qualcosa di intrinseco e funzionale allo sviluppo del sistema capitalista e quindi la tortura come strumento di massima soggettazione dei corpi, se vogliamo, come strumento di avanguardia dell'avanzamento del potere e dell'affermazione di un certo tipo di sistema di oppressione, in questo caso economico, quindi legato ai corpi come forza lavoro, perché chiaramente all'interno del sistema capitalista il corpo è la forza lavoro, non è nient'altro. Esattamente. Già. Alziamo gli applausi come al solito. Vai con gli applausi. Non so cosa sia attaccato lui, spostando. Ci sono anche le voci dei carifonici. E quindi, parlando di colonialismo e di esportazione, appunto, di pratiche. Cioè, non è il colonialismo dell'arte dell'orifizio. No, okay. È il colonialismo e quindi l'esportazione della violenza e di strumenti di tortura. E c'è stata non solo un'esportazione, ma anche un'importazione a volte, dove si apprende da altri popoli e dei mali da infliggere. E quindi, andando avanti con il nostro racconto più o meno lineare nella linea temporale storica, passiamo al secondo dopoguerra. C'è un altro cenno storico interessante, in cui Geoffrey Scholl nel 2010 afferma che nel secondo dopoguerra la tortura nei paesi occidentali si è sviluppata essenzialmente in tre ambiti importanti: nell'ambito della guerra fredda, che abbraccia un periodo che va dal 45 all'89, come sappiamo; nell'ambito della risposta repressiva degli stati ai movimenti sociali degli anni 50 e 60; nell'ambito delle misure antiterrorismo degli anni 70. A far da guida in questo condiviso percorso sono stati gli Stati Uniti, il cui governo, già pochi mesi dopo la caduta del regime hitleriano, prima con Operation Overcast e poi con Operation Paperclip, iniziò a reclutare membri delle SS, scienziati e medici nazisti, che avevano accumulato una vasta esperienza nelle torture di massa realizzate nei campi di lavoro e concentramento in Europa. Quindi tra il 45 e il 55 gli Stati Uniti accolsero 765 specialisti tedeschi, dei quali circa l'80% risultava essere stato membro del partito nazista o dell'SS. Uncle Sam wants you for its tortures. In questo periodo, precisamente nell'aprile 1950, la CIA lancia l'Operation Bluebird per individuare e sviluppare nuove tecniche di interrogatorio, definizione eufemistica della tortura in democrazia. Questa operazione segreta, grazie anche alla collaborazione di diversi scienziati, la CIA riuscì a completare nell'arco di un anno un articolato manuale sulle tecniche di interrogatorio, il famigerato Kubark manuale, cioè il manuale di Kubark. Il suddetto manuale ha guidato e ispirato le torture in molti paesi per molti anni, introducendo importanti modifiche rispetto al passato. Può affermare che sia proprio con questo manuale che avvenga un cambio di paradigma nella tortura contemporanea. Il corpo non è più l'unico bersaglio della sua violenza, perché ad essere attentamente il corpo non è più l'unico bersaglio della sua violenza, perché a essere attentamente valorizzata nel processo è ora anche la mente del torturato. Non si punta più a procurare soltanto dolore fisico, si cerca la progressiva privazione sensoriale del soggetto torturato, con il vantaggio di ottenere più velocemente il suo crollo psicofisico, riuscendo anche in molti casi a non lasciare segni visibili sul corpo, elemento non di poco conto, rendendole anche negabili dunque di fronte in un processo. Quindi in questo codice Kubark, nato da questo dream team dei torturatori, le cinque tecniche principali messe appunto nel manuale consistono in stare in piedi a ridosso del muro, costringendo gli interrogati a rimanere in posizione di stress; incappucciamento, coprire le teste degli interrogati con una sacca o un cappuccio, vabbè, poi ci viene in mente Guantanamo, Abu Ghraib e quant'altro; esposizione al rumore forte e continuo; privazione del sonno; riduzione e controllo della dieta. Il manuale Kubark fu esportato in molti paesi del mondo, alleati degli Stati Uniti nella Guerra Fredda, dove fu arricchito di nuove sofisticate e brutali tecniche. Dal 1960, per esempio, nei 18 paesi latinoamericani nei quali furono instaurati regimi militari e autoritari, il manuale della CIA conobbe probabilmente il suo più vasto e sistematico uso. E qua, vabbè. Gli Avengers della tortura. Approfondite se avete voglia, sono temi agghiaccianti ma molto interessanti, credo, per comprendere appunto le dinamiche di potere e la teorizzazione di queste dinamiche. Secondo me, sai qual è la cosa interessante? quanto, cioè, secondo me queste cose quando inizio a scoperchiare a proposito di Pandora, questo, il vaso di Pandora delle tecniche di oppressione fondamentalmente degli stati che si definiscono democratici, che poi vai a vedere quanto non siano per nulla distanti da quello che nella società viene percepito come un mondo lontano e che per fortuna ci siamo buttati alle spalle, e quanto, no, c'è sempre questa narrativa che noi siamo nell'epoca della civiltà e del progresso, sti cazzo, quando di fatto lo Stato come è definito adesso, le sue strutture sono brutali, oppressive, come lo sono sempre state tutti i tipi di autorità. Siamo nell'epoca della delega più che altro e della professionalità, cioè quando si parla di appunto torture neocolonialiste appunto applicate dal liberalismo per ottenere liberi mercati, ad esempio al Cile, come è successo in Cile, si parla di proprio di clientela, sono privati che torturano per altri privati. Ma scusa, la tortura è sempre esistita, no? Certo, certo. Ciao Bright. Ciao, sì, io arrivo così un po' a caso, ma prendo la discussione un po'... Sì, la prendi come viene. Sì, ma mi sembra che questa storia della tortura è un modo di funzionare dentro ogni governamento che ha sempre essere così, no? Sì. Sì. E perché? Perché per voi gli umani hanno scelto questa cosa della sofferenza per fare parlare la gente? Ascoltavi la puntata, avevi la risposta. No, non è vero, non abbiamo dato una risposta ancora a questo. Non confondere Bright. Allora, solo incuriosire l'entità all'ascolto. Ti potrei dire che nell'antichità la tortura, dicevamo, è stata applicata soprattutto agli schiavi e non si credeva agli schiavi se non sotto tortura, perché si diceva che lo schiavo mente sempre, quindi può dire la verità solo sotto tortura, e quindi anche se non avevi fatto niente alla fine eri costretto a confessare, capito? Sì, sì. Proprio per come dinamica di potere. Sì. E è legata al potere, è sempre stata legata al potere, sì, certo. E alla dimostrazione della forza, sì, è quello, certo. Sì. Però penso che forse Bright intendesse in maniera un po' più generale come mai gli uomini sono sadici. Sì, è quello. Io ho una teoria. Tu hai una teoria? Ti ascolta. Beh, io penso che il sadismo, cioè la sofferenza degli altri, è uno strumento di ampliamento del nostro ego, no? Come tutte le dinamiche di oppressione e di sofferenza, e penso siano delle dinamiche di, cioè dovunque ci sono degli squilibri, secondo me ci sono delle dinamiche di ego, perché per me l'equilibrio è nell'armonia, quando si sta bene tutti, si sta bene, cioè la sofferenza al netto poi non fa bene mai a nessuno, anche se nel breve periodo ti può dare quel boost che ti fa sentire che è qualcosa che ti sta portando un beneficio. E io penso che comunque alla fine il potere e la sua affermazione nella violenza e nella sofferenza degli altri derivino dalla paura degli altri. Quindi una persona che fa soffrire gli altri è una persona che in realtà ha paura degli altri. Sì, quello vuol dire allora forse che i governamenti sono l'inverso della forza, sono, cioè, debole, non hanno potere per niente, hanno potere solamente perché fanno soffrire la gente per avere informazione. Certo. Sono senza potere. C'è la differenza tra autorità e autorevolezza. L'autorità ha bisogno della forza per affermarsi, perché di per sé è inconsistente. Se non c'è l'affermazione della sua forza e il riconoscimento della sua posizione di potere attraverso la forza, crolla. L'autorevolezza non ha bisogno di un riconoscimento, non ha bisogno di... È come appunto le persone che non hanno paura degli altri, non hanno bisogno di sottometterle. Ma è una bella cosa alla fine, vuol dire che questo potere che abbiamo sempre pensato come le più forti, come un punto indistruttibile, alla fine sono merde, nel senso che non hanno il potere di capire la popolazione, non hanno il potere di dell'intelligenza, hanno bisogno di noi per capire come funziona, perché loro sono troppo lontano. Il loro punto di vivere, cioè. Sì, il punto è che hanno bisogno di pagare, anche di pagare qualcuno per farlo, perché non è il presidente che ti tortura. No, perché è difficile torturare una persona, cioè ti far soffrire anche te, perché tu a questo momento, quando fai male a un'altra persona, tu capisci che sei una persona male, che sei capace di fare quello, di fare male alle altre persone. Per forza, una persona che è un presidente, un re, non ha le capacità e non ha la voglia di vedere quello, è molto debole. Debole. Certo, assolutamente. Infatti non è un caso che anche le figure storiche, ma anche gli stessi soldati in trincea, no? Che erano quelli che vedevano più in prima persona le sofferenze e le atrocità della guerra, non erano assolutamente i nobili erano nella cavalleria e i nobili erano negli uffici a coordinare la guerra, gli stessi boia non erano, cioè questi ruoli poi di chi aveva in mano e chi aveva il contatto poi con la sofferenza vera e propria non venivano affidati o affibbiati a chi era nelle caste basse, chi era ai margini della società, perché appunto la sofferenza, il dolore rimaneva sempre all'interno di quei margini lì, anche loro, a prescindere dalle dinamiche, chi aveva in mano la mazza e chi la subiva. Poi di fatto è un po' il discorso di prima, cioè alla fine erano tutti vittime dello stesso sistema di oppressione. Certo. Ma allora fa pensare una cosa, è una questione, vuol dire che se tu soffri di più può essere più non è intelligente la parola, però più matura per capire la vita. Tu hai bisogno di soffrire per capire più cose, perché in questo modo che abbiamo parlato vuol dire che la gente che hanno potere di dire cosa devi fare tu, però non vive mai le cose. La gente che vive le cose, tipo tu vai in guerra e vedi cose orribili, cosa succede nel tuo corpo? Vuol dire che tu poi dopo questa guerra sei più capace di capire come funziona l'umanità, come no? Forse no, cioè puoi aver imparato delle cose, ma ti porti anche tanti traumi, tante paure, e quindi capisci meno. Forse è più difficile capire poi, no, dopo un forse trauma. Dipende dalla persona. Sì. Sì, secondo me la differenza è come le persone poi riescono a far diventare, a far maturare ed evolvere i traumi, cioè se una persona riesce ad andare oltre i propri traumi poi a impara da quelli, no? Però se una persona rimane bloccata nei propri traumi perché magari sono troppo grandi e troppo da gestire in una vita, sì. E rimane bloccata dentro quei traumi e diventa una persona totalmente disfunzionale nel mondo. Ma alla fine siamo tutti in ricerca del potere, cioè in ogni gradi della tua vita, cioè tu sei un re, tu sei una persona che fa il pane, non lo so. Ogni grado tu cerchi il tuo goal è di trovare potere, no? Perché siamo tutti animali, no? È il tuo obiettivo? È il tuo obiettivo? Io non penso a quello, però se prendo distanza dalla mia vita e dagli altri, penso che per forza siamo tutti così perché siamo animali, siamo una parte della natura che alla fine per sopravvivere hai bisogno di potere. Di tu potere. Pensi che il potere e la competizione quindi siano intrinsechi dell'essere animale, quindi anche dell'essere umano? Penso di sì, perché adesso che tutto il mondo va a cadere, va a morire perché facciamo merda con la terra, con la calore e tutto, la gente pensa ancora alle soldi, è una cosa di potere, no? È un, cioè, è un senso. Però secondo me c'è una differenza fra la sopravvivenza e quindi quello che attiene al mondo animale, del vivo io per cioè uccido te per vivere io, e il potere. Perché secondo me il potere ha a che fare con una sopraffazione che non è necessariamente utilitaristica in senso stretto, cioè non ha a che fare soltanto con io adesso ti uccido perché così sopravvivo io. Questo ha a che fare con il mondo animale, cioè l'animale quando ha finito di mangiare non ha più fame, non continua, a parte alcune dimensioni, però diciamo in senso lato, in senso ampio, la maggior parte delle specie animali quando non ha più fame non continua ad andare in giro a devastare tutto. Ma questo è l'impazzia dell'umanità, no? Perché siamo umani, siamo un po' più pazzi degli altri, forse c'è un certo punto di vista, però è sempre la stessa cosa alla base, nel senso che tu devi essere più potente degli altri per sopravvivere, cioè per vivere. Perché noi abbiamo più bisogno, tra virgolette, che altri animali, abbiamo più bisogno di avere un potere che è virtuale, sono d'accordo con te, è inutile, però in testa è utile. Quindi il potere è la schizofrenia del bisogno di sopravvivere? Sì. Fuori, totalmente fuori contesto però, cioè... È la schizofrenia della voglia di sopravvivere che però perde proprio ogni controllo e diventa sì. Follia. Sì, sì, fuori contesto, infatti, sì. Esatto, bravo. Benissimo. C'è un contributo carinissimo. Ciao Wombat, saluti da Bologna, viva Next Emerson e viva la tua gestione, viva viva. E viva, grazie. Bacioni da Bologna. Mi muoto sta cazzipanca. Ehi, vabbè. Scusate, c'è stato un incidente l'ennesimo con la l'ennesima birra spanta. Sì, sì, sì. Ma... Siamo qui per regalare birra ai pavimenti dell'Emerson. Insomma, comunque io mi sono assentato un attimo. La vostra. Mi sa che il vostro excursus è stato bello. Bello denso. Bello peso. È stato bello peso. Interessante comunque. Allora. Sono le 8 e 21. Noi andiamo avanti un altro pochino. Che dite? Ma per me i concerti sono finiti. I concerti sono finiti. Potremmo andare avanti così, a improvisation come al solito. Io ho questa voce schizofrenica, perché siamo in una dimensione schizofrenica anche noi. E allora metterei l'ultima canzone e ci salutiamo. L'ultima canzone, magari nel frattempo dopo ci viene in mente qualcos'altro. E se volete continuare a scrivere, poi continuiamo a leggere. Nessuno ha fretta di andare via. Ale, ale, ale, ale. E si va. Buonasera a tutti. Thank you. Torniamo a bomba. Abbiamo l'ultima carrellata di interviste prima di chiudere questa splendida puntata, l'arte del supplizio. Sì, purtroppo siete sempre qua all'ascolto di noi, persone abbastanza così introverse quasi, no? Sì, abbiamo qua delle simpatiche entità. Sì. E, ad esempio, lei. Dico lei. Qual è il suo supplizio? Per esempio, che direi che sono venuto qui per un concerto, una cover degli ABBA, 25 euro prevendita. Era due settimane che mi stavo preparando all'evento e arrivo qua e era pieno di comunisti, anarchici, panchettoni, hardcore, gente, mala gente, diciamo, che si spingeva, si picchiava e cantava, inneggiava Satana, il demonio, mentre io volevo solo ballare Dancing Queen e Fernando, e canzoni mie preferite degli ABBA. Questo è un supplizio. Ti siamo vicini e... Che esperienza brutale, veramente. Mi dispiace. È sopravvissuto? Ma in realtà poi ho scoperto che mi piace il demonio e alla fine mi hanno convinto. Non credo neanche più di voler ascoltare gli ABBA. È comunque un supplizio. Cioè, bello, brutto, un supplizio. Credo mi abbiano convinto comunque. Adesso sì, sono dalla loro parte, diciamo. L'importante è essere consenzienti comunque, anche nel supplizio. Sono stati rapidi in una serata. Sono stati rapidi in una serata comunque a convincerti. Ci è voluto poco. Non c'era alternativa forse? No. Sì, poi il frontman di questo gruppo cover band degli ABBA chiamato Mar Nero aveva promesso una morte lancinante sul palco per una scossa elettromagnetica, ma che non è mai avvenuta, quindi in realtà... Deludente, quindi tanta delusione. Tante promesse, ma poca ciccia qua. Va bene, insomma, una serata così. Grazie del grazie, della condivisione. E lei invece, Bright, il suo supplizio? È possibile di ricordarmi un po' questa parola? Sì, la tua tortura. Supplizio è una cosa che veramente ti pesa tanto e la vivi in maniera proprio torturante quasi nella vita. Di controllarmi con la gente, di non essere ingenuo. Spontaneo? Okay. No, ingenuo. Ingenua. Verso le persone, di non essere troppo innamorata delle persone. Funziona? No, certo, se funziona per te. Sì, ma è chiaro? Sì, penso di aver capito. Cioè, il fatto che tu possa avere delle limitazioni e delle preimpostazioni nel modo in cui ti vivi le relazioni con gli altri che non sono totalmente ingenue. Non sono capace. Oh, wow. Non sono capace di fare queste cose. Lavoro su quello. Grazie per la voce. Grazie, Bright. Sempre profonde questi scambi, devo dire. E invece il tuo supplizio? Il mio supplizio? Non lo so. Non avere il tempo per la noia, per annoiarmi e creare. Boh, non avere il tempo. Quello è il mio supplizio. È il mio supplizio. A pieno. Grazie. Benvenuto su Radio Wombat. A chiusura di questa puntata, incredibile. Ci guardiamo negli occhi? Ci guardiamo negli occhi. Abbiamo fatto davvero, eh? Come è successo? Come tutti i supplizi, c'è una fine, che può essere la morte o no. Nel nostro caso una rinascita, forse. Una rinascita c'è sempre. che lo vogliamo o no, tramite funghi, batteri che ci rendono di nuovamente disponibili per creare nuovi mattoncini. E quindi vi salutiamo, buona serata, buona cena, se non avete cenato cibatevi di cose buone e siate umus. Almeno il cibo non sia un supplizio, dai. Se prima insomma non stavate ascoltando Wombat, giustamente adesso, cioè quando finirà la puntata, potete riaccendere la radio, dai. Dai. Salutiamo le persone che si connettono ora. Ah, ci vediamo il 12-12, che è l'anniversario dell'Arte del Vizio, puntata speciale. In serbo grandi sorprese. Evviva! Il Black Frater. Ciao. Trey Trex, I think we got one. Yeah. It's fine, right, let me see you walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk. Yeah, ho, yeah, I know that you can talk. You talking all this shit, but let me see if you can walk. Let me see you walk. But I ain't hearing it. It ain't a new shit, and I ain't wearing it. Oh, you a broke, bitter bitch? Stop the comparison. Bitch, I'm bad, bougie, arrogant. Pussy popping like a pinata. Ching, ching, ching, Hina hit the lotto. Kill a bitch and they pride, that's a big swallow. I'm tired of sunning bitches, call your baby father. Look at Boo Boo Kitty, feeling shitty. Play pussy, how you purring like a kitty? I'm a savage, sassy, sadiddy. Yeah, I'm paid, popping, pretty. Let me see you walk. Yeah.